Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: il credito alle imprese, se ne è discusso oggi anche perché, come ricordavano i nostri GR, Unicredit ha annunciato 40 miliardi da qua al 2015 di prestiti alle imprese. Ne parleremo in apertura perché è intervenuto anche il ministro Passera sulle attese verso una cosiddetta fase 2 dopo i tagli e l'aumento delle tasse, tagli e soprattutto aumento della pressione fiscale. Adesso ci si attende una fase che non potrà essere, come abbiamo spiegato molte volte con buona pace di alcuni soloni, non potrà essere una fase immediata, ma deve per forza essere messa in cantiere. La politica industriale che può fare questo governo, principalmente, non solo, c'è l'ICE, c'è la SACE, c'è la Siemens, ma insomma la politica industriale che può fare questo governo, la più efficace, è quella di ridurre le tasse a chi le tasse le paga, e quindi ai lavoratori dipendenti e anche alle imprese, laddove appunto si stia ragionando di cuneo fiscale. Quindi rendere più leggero il costo del lavoro, renderlo più leggero per le imprese, ma anche e soprattutto per i dipendenti, con il doppio effetto ristimolare un po' la domanda interna, quindi i consumi fermi, e appunto caricare di minori oneri fiscali le imprese. Parlerò anche più avanti, visto che ieri la nostra posizione su Pizzetti, che ribadisco in tutto e per tutto, facciamo neanche riascoltare Pizzetti, fra un po' il garante alla privacy di ieri, moltissimi sms, molti di complimenti, alcuni di critica anche su Facebook. Ci sono buon temponi, nel senso veneziano, che hanno buon tempo, hanno tempo da perdere, ma non importa. Richiarirò, se può servire, il pensiero, che è la linea editoriale di questo programma. Poi scrivete al direttore, non scrivete al direttore, fate un po' quello che volete. L'altro grosso tema riguarda invece la riforma del mercato del lavoro. Dopo lo stallo di ieri e la paccata di miliardi che il ministro Fornero ha detto, non possiamo mica dare una paccata di miliardi se non c'è l'accordo con i sindacati, oggi una risposta anche ironica, devo dire, della Presidente del Confindustria Marcegaglia: non mi pare ci siano paccate, ci danno paccate e basta. Però poi le cose si stanno un po' sbloccando, perché stanno arrivando numerose dichiarazioni. Oggi il ministro Fornero ha incontrato non le associazioni datoriali, cioè Confindustria, Rete Imprese per l'Italia, ma i sindacati. Ci sono, oltre al tema che è quello più delicato in questo momento degli ammortizzatori sociali, anche la flessibilità in uscita, quindi l'articolo 18. Il ministro questa mattina già aveva detto vi sono abbastanza risorse per gli ammortizzatori sociali. Poco fa è tornata a esternare, ha detto un accordo mi sembra realizzabile già dalla prossima settimana. Cisle e Will sono uscite dall'incontro dicendo un incontro utile ma no comment. Il segretario però della CGIL, Susanna Camusso, ha detto mi pare stiano maturando cose positive. Ne parleremo ampiamente nella seconda ora del programma, perché da questo punto di vista sarebbe la riforma fondamentale nel mercato del lavoro quella che si sta delineando, anche qui con la massima libertà di opinione. Ad alcuni piace, ad altri no, altri sono molto scettici. I mercati come vanno? Più 0,40% Milano, più 0,47% Parigi, più 1,20% Francoforte. Invariata Londra, l'America guadagna lo 0,11%, euro a quota 1,30,13 e la benzina ha fatto un nuovo record, ma ormai non fa più notizia quasi. Ma parleremo della benzina degli altri, perché c'è una tabella molto interessante su quanto costa la benzina prima di essere tassata dall'IVA. Siccome i petrolieri dicono sempre che è colpa del governo e il governo ha le sue responsabilità, però attenzione, perché anche prima dell'IVA la nostra costa di più. Mediolanum più 4,77%, Salvatore Ferragamo più 3,34%, ST Microelectronics più 2,80%, Fiat più 2,60%, Mediobanca più 2 come Azimut, Telecom Italia più 1,90 come Monte dei Paschi, l'1,70 lo guadagna Generali ma anche Impregilo. Chi perde? Perde la Popolare Emilia Romagna, meno 2,45, Toz -2,20, Diasorin -1,70, Tenaris -1,1%. Le altre notizie in breve. Arriviamo al tema delle tasse, del fisco, nell'interpretazione però autentica di quello che ho detto, non in quello che piace scrivere Buontemponi. Allora, l'oro è in calo a $1,648 l'once, quindi siamo sotto i 1,700 ampiamente, il petrolio è in leggero calo ma sempre sopra i $105 al barile, a $106,32, secondo la situazione che riunisce, l'agenzia che riunisce i maggiori paesi produttori di petrolio, l'export del petrolio iraniano calerà di 1 milione di barili al giorno dalla seconda metà del 2012. Secondo l'amministratore legato dell'ENI, Paolo Scaroni, ricordo che le tensioni in Iran stanno incidendo sul prezzo del petrolio per circa $20 al barile. Dicevamo del record del petrolio, altro record oggi. Questa volta la Shell a 1,875 euro al litro, aumenti anche per l'ENI, si tratta del 22esimo aumento consecutivo sulla verde, del 16esimo aumento consecutivo per il diesel. Dicevo, per ENI, Esso, Shell, Tamoil e Total Erg, il gasolio resta a 1,780 euro. No, dicevo che poi la giustificazione dei petrolieri ogni volta che abbiamo avuto De Vita, che li rappresenta tutti, ma qui noi rispecchiamo il prezzo internazionale, ci sono le accise, c'è l'IVA, sappiamo tutti che le accise e l'IVA pesano tanto, e in effetti se noi prendiamo il prezzo finale alla pompa, noi abbiamo un record in Europa, nel senso che 1,875 euro non ce li ha nessuno, il Belgio ci va vicino con 1,733 euro, la Germania è 1,660 euro, la Francia 1,680 euro, la Grecia 1,750 euro. Però la cosa che lascia perplessi è vedere qual è il prezzo escludendo l'IVA. Allora, escludendo l'IVA, il nostro prezzo è 1,512 euro, ma resta il più alto di tutti lo stesso, perché in Germania è 1,400 euro, in Francia 1,410 euro, in Belgio 1,430 euro, in Gran Bretagna non parliamo, 1,396 euro, perfino in Grecia 1,424 euro, in Spagna 1,224 euro. Questo vale anche per il gasolio, nel senso che se leviamo l'IVA dal gasolio resta il nostro gasolio il più alto di tutti, 1,437 euro, contro la Germania 1,282 euro, la Francia 1,255 euro, la Spagna 1,175 euro, l'unica è la Gran Bretagna che si avvicina a 1,477 euro. E allora come la mettiamo De Vita e tutte le compagnie petrolifere? Qui il prezzo è più alto anche al netto dell'IVA. Vabbè, ci saranno sicuramente altri elementi. Nel frattempo la Grecia ha ricevuto l'ok definitivo agli aiuti. Volete sapere lo spread con tra BTP e Bund? Anche qui con buona pace di alcuni, vedo su Facebook, sul sito del nostro programma, c'era chi scommetteva che lo spread sarebbe rimasto a 600, non ha neanche, o a 520, e non ha neanche il coraggio di ammettere di essersi sbagliato. Mi dispiace per chi scommetteva in uno spread a 500, oggi siamo a 290 punti, il rendimento dei BTP a 10 anni è al 4,85%, E poi l'asta di oggi dei BTP a 3 anni, il rendimento è sceso al 2,76%. Qui siamo ai minimi dall'ottobre del 2010, cioè da prima che partisse a giugno del 2011, che iniziassero a schizzare spread spagnoli, italiani, che non si superasse la Spagna quanto a rischio percepito, quanto a costo per collocare il nostro debito. Dico tutto questo nonostante ci sia chi, non capisco veramente quale sia la logica, continua a quasi essere deluso dal fatto che lo spread sia ridotto. Forse puntava al tanto peggio, tanto meglio. Noi torniamo invece a parlare di fatti e delle notizie in breve. Con la base, no, anche senza base, non importa. Allora, la riforma del mercato del lavoro questa mattina, l'abbiamo detto, incontro tra il ministro del welfare Elsa Cornero e i leader di CGIL e CISL e UIL. Di questo parleremo nella seconda, ecco se c'è anche la base, nella seconda ora del programma. Poi invece quello, per quello che riguarda Unicredit, vedo molte domande, un attimo di pazienza, ci arriviamo, 40 miliardi annunciati. E poi c'è, la polemica che abbiamo suscitato con il commento che abbiamo fatto ieri sulla frase di Pizzetti. Siamo in presenza di strappi forti allo Stato di diritto e al concetto di cittadino che ne è alla radice. È proprio dei sudditi essere considerati dei potenziali mariuoli. È proprio dello Stato non democratico pensare che i suoi cittadini siano tutti possibili violatori delle leggi. Allora, questa è la frase del garante per la privacy. Ieri ci siamo limitati a dire, limitati si fa per dire, che va benissimo la privacy, il mantenimento della privacy, anche se la struttura costa un po', e questo mi dispiace dirlo, ma la struttura costa un po', costa quasi 1 milione di euro l'authority sulla privacy. Il punto è un altro, il punto è, con un paese con 200 miliardi di evasione, so benissimo che Oscar Giannino non la pensa come me, la pensa in maniera diversa su alcune cose, con 200 miliardi di imponibile evaso ogni anno, forse l'attività del governo è un'attività eccezionale, straordinaria, dura, ma si applica in un contesto eccezionale. L'evasione fiscale più alta ce l'ha questo paese, e abbiamo anche ricordato, e con buona pace di chi poi invece ascolta altre cose, che a noi interessano i piccoli artigiani, i piccoli imprenditori che non ce la fanno perché da un lato hanno i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, sono arrivati quasi a 100 miliardi i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione rispetto a quanto devono appunto le imprese, e che hanno le banche che non concedono credito. Ci interessano i pensionati e la manovra fatta sulle pensioni, ci interessa il lavoratore dipendente, dove tutti i dati a disposizione segnalano un potere d'acquisto che è tornato indietro di 30 anni sul fronte alimentare, 10 anni sul resto. Degli evasori, quelli grandi, non ci interessa, devono pagare tasse. E continuare a dire che la spesa pubblica è alta, che è vero, anche se non quella sanitaria e non quella del welfare, e continuare a dire che siccome la spesa pubblica è alta io non pago le tasse, è come dire che siccome ci sono le buche sulle strade io passo col rosso, non ha nessun senso. Con buona pace di chi ha capito qualcos'altro, abbiamo sempre difeso le piccole imprese, gli artigiani, abbiamo sempre detto che delle volte un certo tasso di evasione come in altri paesi può essere tollerato se devi stare dentro e sopravvivere, ma non è accettabile, 200, non sono accettabili 200 miliardi di imponibile evaso che sfuggono al fisco ogni anno. E poi le misure degli altri, no? Perché insomma, qui si sta arrivando allo stato di polizia. Evidentemente quando c'è un tasso di inciviltà così alto come sulle strade, probabilmente bisognerà mettere più poliziotti sulle strade. In altri paesi non c'è bisogno di avere così tanta polizia sulle strade perché i cittadini sono più rispettosi delle regole stradali, va bene? Allora, in Francia c'è la tessera sanitaria biometrica come il passaporto per capire sostanzialmente come spendi e come godere dei rimborsi del sistema sanitario nazionale. In Gran Bretagna ci sono 12 gruppi di investigatori che devono combattere l'evasione per arrivare a raccogliere 75 milioni di euro in più. Noi vorremmo puntare a un po' di più. E ancora, negli Stati Uniti abbiamo già detto ieri, addirittura si va in galera. L'unico paese in cui sono un po' più laschi sui controlli all'evasione fiscale, oltre alla Grecia, è la Spagna. ...349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo con il primo tema, e il primo tema si chiama le difficoltà, quelle sì, delle aziende nei confronti della pubblica amministrazione. E oggi Unicredito, cercando di rimediare, ha indetto un convegno che si è chiamato Non sentite anche voi il bisogno di azioni concrete. Sì, anche noi lo sentiamo, e tutti i nostri ascoltatori che lamentano difficoltà con i prestiti nelle banche e difficoltà con i pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Una precisazione a chi ha buon tempo: non scrivete sempre al direttore, o scrivete come fa la Confindustria accettare uno come me. Già si capisce la cifra, vi contraddistingue, perché se volete fare una critica la fate a me, buonissima, al programma. Ma perché scrivere al direttore? Cos'è questo modo? Al padrone? Allora, non sono 70 miliardi di euro, sono quasi 100 miliardi di euro, stando agli ultimi calcoli, che la pubblica amministrazione, questo è indecente, deve alle imprese italiane. No, le paga non in ritardo, le paga con 600-700 giorni. Ripeto, non è un buon motivo per dire allora non pago le tasse. Altra cosa sarebbe dire fammele girare come credito d'imposta, cioè scalamele dalle tasse che devo pagare, oppure almeno, come si propose all'inizio, darle in botta. Almeno uno può andare in banca e dire: guarda, ho questo ammontare di titoli di Stato, allungami la linea di credito, dammi un prestito, perché in questo modo non riesco se non andare avanti. Però il ministro Corrado Passera dice 100 miliardi, e lui che rappresenta adesso non più le banche ma il governo, ammette è un comportamento dello Stato che sfiora la disonestà. L'enormità dello scaduto, dei pagamenti in ritardo, che sia nel mondo privato che nel mondo pubblico, si sono accumulati, creano da una parte pressione enorme, stress finanziario alle imprese, dall'altra parte occupano linee di credito che potrebbero essere meglio destinate ad altro, e che costituiscono debito forzoso da una parte e credito forzoso dalla parte delle banche. Il presidente Monti ha detto chiaramente in più occasioni che come Italia dobbiamo essere tra i primi paesi a adottare fino in fondo e possibilmente in anticipo la direttiva europea sui pagamenti, che vuol dire semplicemente allinearci a modi di comportamento onesti, perché non pagare per mesi, per trimestri, certe volte per semestri, ciò che è dovuto è un comportamento che sfiora la disonestà. Probabilmente siamo nell'intorno dei 100 miliardi, forse addirittura di più, tra privato e pubblico. Naturalmente nel fare questo e nel riassorbire comportamenti che si sono accumulati negli anni, dovremo assicurarci che quello che faremo sia totalmente coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ma è chiaro che in quella direzione dobbiamo muoverci. Se lo dice il ministro, a maggior ragione. Vorrei sapere poi che ne è stato della proposta, che a me non pareva malissimo, quella di almeno dare, se non in credito d'imposta, almeno dei bot, nell'attesa che poi la pubblica amministrazione paghi, ma almeno pagare con titoli di Stato, anche se sono a scadenza dei 3 anni, almeno uno, ripeto, va in banca come imprenditore, come artigiano, come imprese, dice: ho questi soldi che fra 3 anni potrò incassare. E poi la crisi. Dopo aver elogiato il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, il ministro dello sviluppo Corrado Passera ha detto: attenzione, i trimestri negativi stanno arrivando, lo sappiamo tutti che siamo in recessione. Draghi ha dato un grande contributo, ma insomma siamo tutt'altro che oltre, diciamo, la fase peggiore della crisi. Siamo in un momento oggettivamente difficile, siamo nella fase in cui taluni trend che si stavano realizzando nel corso dell'anno scorso sono venuti a compimento. I trimestri negativi sono qualcosa di assolutamente preannunciato e che sono stati anche alla base di taluni degli interventi che abbiamo preso. Alcuni effetti prociclici sia nel campo della finanza che dell'impresa hanno ulteriormente peggiorato questa situazione. Dobbiamo ricreare le condizioni perché velocemente da questa situazione si esca e che già nel corso dell'anno si possa vedere un cambio di direzione. Giustamente è stato detto, ciascuno deve fare la sua parte, le imprese non bancarie, le imprese bancarie, le parti sociali, il governo, ciascuno per la sua parte. Il lavorare insieme farà la differenza e questa sensazione di lavorare insieme che non si ricordava da tanto tempo, invece adesso è percepita e percepibile, e solo perché c'è sia all'interno del governo sia insieme alle parti sociali questo spirito, noi possiamo puntare agli obiettivi che devono essere ovviamente di risultati, di PIL, perché alla fine è un misuratore di cui non possiamo fare a meno e che vogliamo riportare in zona positiva velocemente, ma alla fine in termini di posti di lavoro. Allora, no, vabbè, vedo alcuni messaggi che mi fanno sorridere. C'è anche chi rivendica il diritto di scrivere al direttore per rimuovermi dall'incarico. No, va benissimo, Mi lascia un po' perplesso il metodo. Uno, se ha un'obiezione, la scrive. Scrivere al direttore, levatelo, fatelo tacere. Ricordo un po' così lo stivale nero, la camicia nera, più che... Boh. Vabbè, allora, Ghizzoni, 40 miliardi, speriamo che ci siano tutti. Unicredit è pronta per i prossimi anni a erogare 40 miliardi di credito alle imprese e più di 35 miliardi alle famiglie. 75 miliardi nel complesso, tanta roba. Ghizzoni però avverte, va fatto, Ghizzoni è il numero uno di Unicredit, va fatto in maniera corretta e anche selettiva. Si parla molto di credito alle imprese. Allora, nei prossimi 4 anni metteremo a disposizione 40 miliardi di euro di credito aggiuntivo alle imprese, oltre a 35 miliardi di credito aggiuntivo alle famiglie. Quindi sono in totale più di 70 miliardi di credito che la banca si impegna a fare, ha inserito nel proprio piano industriale, ha inserito nel budget di quest'anno. 40 miliardi di credito alle imprese, 35 miliardi di credito alle famiglie. Credito, so che magari non sono popolare, che però deve essere fatto in maniera corretta e, perché no, anche in maniera selettiva e ai prezzi giusti. Quindi siamo disposti a fare credito, ma non chiedeteci, diciamo, di lavorare in perdita. Noi siamo un'impresa privata e anche noi abbiamo il diritto a creare reddito e profitto, però l'impegno a fare credito è indiscutibile. Secondo impegno, l'internazionalizzazione. Vogliamo portare ulteriori 15.000 imprese all'estero, cioè imprese che oggi non hanno presenza all'estero o hanno presenza in un solo paese, vogliamo ampliare il numero di mercati in cui esportano. Non è una cifra piccola, dei nostri calcoli può contribuire, se la raggiungiamo, a un aumento dello 0,30 del prodotto interno lordo. Quindi con le nostre strutture all'estero un impegno a portare 15.000 aziende in nuovi mercati. Negli ultimi 3 mesi dell'anno c'è stato proprio un doppio problema di domanda più ridotta e difficoltà a causa della liquidità da parte delle banche, peraltro non solo italiane ma europee in generale. Gennaio, febbraio, marzo, a me sembra che gradualmente la domanda stia tornando e gradualmente ci sia più risposta. Non abbiamo ancora le statistiche però, quindi è difficile far commenti, ma l'impressione è questa e direi che quello che manca ancora purtroppo, e qui è proprio domanda, è la domanda di credito per investimenti. Questo non vediamo richieste in arrivo. Sì, ma allora ci saranno anche poche richieste, ci sono anche poche concessioni da parte delle banche, però insomma c'è un passaggio su cui mi vorrei concentrare dell'intervento di Ghizzoni, che comunque apprezziamo, perché nel momento in cui il primo gruppo bancario del paese, assieme a Intesa San Paolo, si dice disponibile a concedere 40 miliardi alle imprese da qua al 2015 e 35 miliardi alle famiglie, speriamo. Anche perché le banche italiane hanno ricevuto in due tranche qualcosa come 250 miliardi dalla Banca Centrale Europea per tre anni all'1%, quindi lentamente, dopo aver sistemato le loro obbligazioni, dopo aver comprato i BOT e i BTP, iniziassero anche, o sarebbe bene che iniziassero anche con una sana e prudente gestione, a erogarlo sto credito. Però Ghizzoni riconosce che verso le banche c'è un clima di diffidenza e forse anche di ostilità. In un momento di elevata incertezza, di grande volatilità, purtroppo con un elevato costo del rischio, l'economia italiana purtroppo performa meno bene rispetto ad altre economie, lo vediamo proprio sugli accantonamenti che le banche devono fare rispetto ad altri paesi. Giusto per darvi alcune cifre, Unicredit a circa il 30% dei crediti in Italia, sul totale di gruppo, però purtroppo il 75% circa dei crediti dubbi e contenziosi sono in Italia a livello di gruppo, quindi questo denota le difficoltà che ci sono. Come sapete c'è un contesto regolamentare molto complesso, parlo di Basilea 3, parlo di regole sulla liquidità, sul leverage, parlo delle decisioni dell'EBA recenti. Contesto regolamentare che di per sé può essere anche accettabile, ma purtroppo è anticiclico e quindi crea problemi in questo periodo. Tra l'altro problemi credo che anche l'imprenditoria forse in parte sottovalutato. Non è stato capito bene l'impatto di Basilea 3 su tutti quanti noi, banche e imprese. La liquidità è ancora, non dico scarsa, ma sicuramente non abbondante, nonostante la grande iniezione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea. Purtroppo il mercato interbancario non funziona ancora ed è particolarmente difficile trovare credito o funding, soprattutto a medio e lungo termine. E se mi consentite, c'è un clima un pochino di diffidenza, a volte forse anche, forse esagero, ma a volte forse anche di ostilità verso le banche. Allora, l'ostilità è sempre sbagliata, la diffidenza è sempre sbagliata, però è chiaro, lo dico con massimo rispetto all'amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni, ma anche agli altri, Cucchiani di Intesa San Paolo, al presidente dell'ABI Musseri, cioè, è chiaro che la diffidenza e l'ostilità, per quanto sia sbagliata, nasce da un effettivo, un oggettivo restringimento del credito operato dalle banche in questi mesi. Lo ha riconosciuto lo stesso Ghizzoni qualche settimana fa. Dopodiché è vero che c'è Basilea 3 che obbliga le banche a valutare in maniera diversa, è troppo complicato parlarne, i crediti a seconda che siano investimenti per esempio in bot oppure crediti a una piccola impresa, devi accantonare di più. È vero che la European Banking Authority ha chiesto accantonamenti pesanti. Però poi quando si vede che il gruppo Ligresti naviga in 1,5 miliardi di debito con Mediobanche, chi gliela date? E quando si vede che varie banche, tra cui Intesa, avevano prestato soldi al San Raffaele, anche lì 1 miliardo, è chiaro che il piccolo imprenditore si chiede: ma io perché non riesco a ottenere 100.000 euro e quelli fanno buchi da 1 miliardo? E viene in mente sempre il mitico Benigni. Lei è venuto qui? Non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente e vuole 100 milioni. E pretende che noi glieli diamo? Direttore! Lei non mi vuole dare 100 milioni! Ma lei va a contare il nostro nome, dottore Dio d'aiuto! Lei si contraddice! No, non ho niente! Certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni! Perché se avessi 1 miliardo me li darebbe 100 milioni? Certo! Certo! Ah sì, eh? Certo! Ma se avessi 1 miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni! 200! Tenga, 300 milioni! Qui! Tenga! Non li voglio neanche, me ne resta 700! Grazie tante! Non li voglio! Li mette in tasca! Non li voglio! Li mette in tasca! Se c'ho 1 miliardo mi dà 100 milioni! Allora, se io ho bisogno di una melanzana! Devo andare dall'ortolano, devo avere 1 miliardo di melanzane a casa? Non me l'ha mai detto l'ortolano! Ce l'ha lei 1 miliardo di melanzane! Mai! Né di pesche, di quello che ho bisogno! Allora, adesso c'è il meteo, la pubblicità, poi la borsa. Sì, c'è chi dice attenzione, la liquidità delle BCE è sostitutiva dell'interbancaria, non aggiuntiva. Ho capito, perché le banche tra di loro non si prestavano i soldi. Poi però qualcuno mi spieghi perché due settimane fa abbiamo toccato un nuovo record nel deposito overnight, che è overnight per le banche e overnight per gli imprenditori, nel senso che le banche preferiscono lasciare i soldi la sera alla BCE e prenderli la mattina piuttosto che impiegarli, eh? Sono sempre misteri. Meteo, pubblicità e poi la borsa. 349-238-6666 per gli sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora, chiuso il capitolo di Ghizzoni e dell'Unicredit, fermo restando che ben vengano le iniziative, lo ripeto per la terza volta, così non verrò frainteso, le iniziative a favore delle imprese e delle famiglie e l'impegno coraggioso comunque del gruppo Unicredit di mettere a disposizione 40 più 35 miliardi. Noi ci abbiamo un po' scherzato con Benigni. Oggi le banche in realtà hanno conosciuto una giornata tutto sommato opaca, e vanno anche bene queste, a parte la Popolare Emilia Romagna, meno 2,50%, tutte le altre hanno avuto variazioni molto molto basse, anche Unicredit più 0,20%, con un indice che si è mosso poco, da prefisso telefonico, più 0,30%, Parigi più 0,40%, molto meglio Francoforte, più 1,20%, e allora borsa sia. L'America più 0,11 in questo momento, l'Inghilterra meno 0,10, l'euro a quota 1,30,28. Ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, che è successo? Guadagnavano, poi si sono avviate verso la parità, no? Sì, ma è verso solo e soprattutto per Milano, perché poi le altre borse europee hanno più che altro mantenuto intatti quelli che erano i guadagni a metà seduta, cioè Francoforte guadagna più di un punto, Parigi circa mezzo punto. Invece a Milano alcuni realizzi su alcune banche, in particolare, come dicevi, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che ha già presentato il piano industriale al 2014, e anche su alcune utility depresse da quello che è stata la perdita di E.ON, la tedesca E.ON. Ancora, sì, E.ON infatti ha penalizzato poi tutto il settore degli utilities, ossia di chi insomma fornisce servizi acqua, gas, elettricità. Eni meno 0,50, Enel Green Power meno 0,50, A2A meno 0,60, Snam meno 0,86 percento. Toz realizzi, immagino, perché insomma ieri era il miglior titolo. Sì, aveva dato più di 7 punti percentuali dopo i conti, che erano conti in crescita, con una cedola in crescita del 25%, oggi qualche realizzo, meno 2,9%. Ancora, Popolare Emilia Romagna, meno 2,50, cioè, oggi presentavano il piano industriale. Sì, oggi presentavano il piano industriale, diciamo che è un piano industriale che, almeno stando a vedere la seduta di oggi, non ha entusiasmato il mercato, un piano abbastanza prudente con un payout diciamo attorno al 25% come payout, insomma è un modo abbastanza elaborato di andare a vedere quali sono i dividendi che verranno dati nei prossimi anni agli azionisti, ed è un payout considerato abbastanza basso per il mercato, considerato che in passato BPER ha dato almeno il 30%, anche dal punto di vista patrimoniale gli obiettivi non sembrano particolarmente ambiziosi e dunque il titolo ha perso il 2,5%. Ancora, chi invece è andato bene? Vedo che molti ascoltatori vogliono un sano confronto, immaginando di sangue, tra me e Oscar Giannino, che invece ci conosciamo bene. Sarete accontentati venerdì, perché visto che saremo in diretta dalla due giorni del Centro Studi Confindustria qui a Milano, alla Fiera Vecchia, per guardare i modelli di crescita economica degli altri, così si può imparare anche dagli altri, Oscar sarà nostro ospite, come altre volte è successo, e magari ci confronteremo anche battagliando sulle diverse idee di Stato che abbiamo. Mediolanum, dicevo, più 4,66%, Salvatore Ferragamo più 3,34%. Ferragamo oggi... qui c'è Ugo Boss, eh? Sì, Ugo Boss ha fatto dei conti in netta crescita, e in più anche per l'anno in corso, cosa che se vogliamo per il mercato è ancora più importante, ha previsto un ulteriore rialzo dei margini e dell'utile, quindi un incremento del business. Ferragamo ovviamente beneficia di questa indicazione, oggi ha toccato i massimi storici dall'IPO a 15,4 euro, dall'IPO ha guadagnato più del 70% il titolo. Eh sì. STMicroelectronics più 3%, Fiat più 2,5%. Allora, Azimut più 2,33%, Generali più 1,90%. Dopo le informazioni sul traffico, vorrei parlare però del Monte dei Paschi, perché qui siamo alla stretta finale. Stretta finale, non strangolamento finale. E poi anche di Assorin, che oggi in calo, più altri titoli che vedo. Tra i migliori e peggiori, 349-238-6666 per gli sms, traffico. Ancora, dicevamo, CEO sui titoli per quello che riguarda il Monte dei Paschi. Qui siamo alla stretta finale, le banche hanno dato via libera per un 11-15% della quota di Montepaschi in mano alla fondazione, l'arrivo di Profumo viene sempre confermato, mi sembra di leggere, e il titolo? Il titolo oggi è andato bene, ha fatto più 1,8%, qui si scommette in pratica sul fatto che, come giustamente dicevi, le banche creditrici della fondazione, Mediobanca e Credit Suisse, hanno dato il via libera alla cessione di questo pacchetto, che potrebbe andare dall'11 al 15% della banca, che in teoria dovrebbe mettere una toppa sui conti disastrati appunto dell'ente senese. E dunque questo pacchetto dovrebbe essere rilevato, si dice, dalla Equinox, guidata da Salvatore Mancuso. Siamo appunto alla stretta finale e il titolo cresce. Ancora vedo che tra i migliori e peggiori c'è Cadit più 23,80%. Edes più 9,80%, Geox più 7,40%, Aegon più 7,15%, E.ON più 7% e Banca Generali più 6%. Fronte opposto invece SEAT per generale sul risparmio meno 25%, investimento e sviluppo meno 20%, BT meno 6% e 90%. Di Assori si è un po' ripresa alla fine, eh? Oddio. Ha perso l'1,5%, dai dati che ha dato venerdì ha perso praticamente quasi il 10%, i dati in sé non erano brutti, era molto brutta la guidance, cioè le previsioni per il 2012 si stimavano addirittura margini in ribasso, e il mercato continua a punire duramente la società. Grazie a Ceo Condina, Radio Corio, Sole 24 Ore. E noi, prima di passare al tema del lavoro, torniamo sul tema della benzina, perché molti di voi ci hanno chiesto, ma in una puntata di 3 settimane fa i Codacons non avevano annunciato misure draconiane contro i petrolieri se fossero andate avanti così le cose? Ecco, noi non ci dimentichiamo. Eh sì, perché oggi la benzina ha fatto un nuovo record con la Shell a 1,875 euro al litro, 21esimo aumento consecutivo sulla verde e 16esimo aumento consecutivo sul diesel, sul gasolio, che resta a 1,780 euro. Il record storico era del 1977, ma allora era, dico, perché costava 1,856 euro al litro. L'abbiamo ampiamente superato. Negli anni 80, quando la spesa per alimentari, tabacco e bevande era come adesso, dato di Intesa San Paolo di 2 giorni fa, però un litro di super costava l'equivalente di 1,540 euro di oggi, e il gasolio si pagava la metà di oggi, 69 centesimi. Carlo Rienzi, presidente del Codacons, buonasera. Buonasera a voi. Mi scusi, lei, nostro ospite 3 settimane fa assieme al presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, De Vita, disse: se non cambiano le cose siamo pronti a scatenare la guerra, a scatenare l'inferno. Siccome adesso ho il GR, ci tenga tutti quanti in attesa e col fiato sospeso, dopo il GR ci racconta che cosa avete scatenato, perché era una frase tipo... tipo il gladiatore, al mio segnale si scateneranno chissà quali class action. Abbiamo visto poco, ma probabilmente siamo noi distratti. Dopo il GR mi dà la risposta. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, al presidente del Codacons Carlo Rienzi. Tema è la benzina, perché si fosse appena messo in collegamento anche oggi, nuovo record storico della benzina. Voi ospite in questo programma con il presidente dell'Unione Petrolifera Italiana De Vita, lei Rienzi dice: attenzione perché siamo pronti a scatenare l'inferno. Io ricordo l'8 febbraio una vostra richiesta al governo di inviare la Guardia di Finanza presso i distributori di benzina per vedere se c'erano rialzi ingiustificati e speculativi. E poi una vostra dichiarazione di due giorni fa: la situazione è fuori controllo, è emergenza nazionale. Ieri abbiamo avuto il rappresentante di una parte dei distributori di carburante che accusava le compagnie di usare i rialzi per poi praticare sconti come specchietti per gli allodole. Ma vorrei sapere, la vostra azione va avanti? Ma va avanti, sì. Noi abbiamo scatenato la guerra, ci siamo accorti che la guerra era contro lo Stato. E quindi abbiamo pensato che o dobbiamo sovvertire questo Stato o ci dobbiamo arrendere. Cioè adesso vi accorgete che le accise e l'IVA pesano, no? No, non è che ci accorgiamo che... intanto le dico che cosa abbiamo scatenato. Abbiamo invitato tutti i consumatori a diminuire i consumi, e infatti i consumi sono diminuiti e di parecchio. Speriamo che diminuiscano ancora e che questo porti a più miti consigli chi vende la benzina. Sì, però lei sa che chiedere di diminuire i consumi, cioè di usare meno l'auto, si può fare in alcuni casi. In altri casi, come marito cornuto che si taglia, no, la cosa che ha più cara, perché uno l'auto la usa per lavoro, Non è che bisogna diminuire i consumi necessari. Purtroppo i consumi della benzina sono considerati anelastici, perché la gente è viziata. Cioè pensa che per andare da qui a lì, nella stessa città, nella grande città, sia meglio andare in macchina e poi girare mezz'ora per trovare il parcheggio e consumare un'altra benzina, invece che andare a piedi o andare in autobus. Questo va smesso, va finito, e soprattutto va evitato l'uso della macchina quando non è necessario. È chiaro che questo è solo un palliativo, ma abbiamo fatto anche altro. Abbiamo chiesto lo scioglimento dell'Unione Petrolifera, che non è un'associazione, è una struttura che serve soltanto per tenere in piedi questo gruppo di venditori di petrolio che vogliono tenere il prezzo alto. Abbiamo chiesto che si ritorni al prezzo amministrato, quello che fissava il CIP sulla base dei costi. Noi eravamo nella Commissione Centrale Prezzi e allora le cose funzionavano meglio. Abbiamo chiesto soprattutto che il governo non fosse più complice delle speculazioni dei petrolieri e congelasse le accise, perché se è vero che loro hanno una percentuale da incassare e nel bilancio dello Stato è previsto 10, non si capisce com'è possibile che continuano con questi aumenti a incassare invece di 10, 12, 13, 15, 20 e nessuno dice nulla. Questa è una vera e propria truffa, cioè loro non possono approfittare degli aumenti della benzina e avendo la percentuale di accise incassare sempre di più. Loro devono è più sull'IVA comunque, va bene. Sì, è più sull'IVA che essendo proporzionale fa incassare lo Stato più del... Congelare tutto quello che è proporzionale, che è una cosa assurda, non può andare avanti in questo modo. Questa è un'altra cosa che abbiamo chiesto, e poi ci stiamo preparando alla battaglia a livello europeo, perché anche lì porteremo questa situazione in cui praticamente da una parte noi siamo obbligati dalla mobilità e dalle necessità del momento, del mondo attuale, di usare la benzina, la macchina e quant'altro. Dall'altra però c'è una libertà di prezzo che è una libertà apparente, nel senso che con la storia del Brent, dell'aumento che aumenta quando vogliono loro non aumenta, e quindi le speculazioni, questo prezzo che è cosiddetto di libero mercato non ha niente di libero, perché è un prezzo oligopolistico, è un prezzo che va assolutamente rimesso sotto il controllo dello Stato, perché ripeto, il consumo di carburanti, la carburante è un bene ormai essenziale, come può essere l'acqua, come può essere l'energia elettrica, come può essere domani l'aria. Sì, però Rienzi, qui siamo all'acqua calda, ho capito che è un bene, però io mi aspetto. Allora, le class action le farete? Ma class action per che cosa? Me lo deve dire lei che ha minacciato. Lei non conosce la class action in Italia. Se fossimo in America, dove c'è il danno punitivo e dove effettivamente gli abusi, gli aggiotaggi e le cattiverie degli speculatori vengono punite come si deve, si potrebbe fare. Qui pensate che esiste una legge che per poter fare una class action bisognerebbe intanto dimostrare che abbiamo comprato tutti la stessa quantità di oro, di petrolio, di benzina, per stare tutti nella stessa identica situazione, per dire come è assurda questa legge che non tutela assolutamente il consumatore. Quindi è inutile che ce ne abbiamo la bocca con la parola class action. Noi possiamo solo continuare a denunciare per aggiotaggio e per truffa questi speculatori, sperando che qualcuno dei 104 procuratori della Repubblica Italiana, e alcune inchieste sono state avviate grazie alla nostra denuncia, quindi abbiamo delle inchieste in corso, aspettiamo di vedere dove? L'esito che avranno in alcune città italiane. Non glielo dico perché se no immediatamente vanno a rompere le scatole, come fanno sempre con le loro attività di lobbying, vanno a rompere le scatole anche ai giudici dicendo che insomma eccetera eccetera. Quindi noi, ma comunque adesso... lei mi dà per certo che avete avviato alcune che ci sono alcune procure che stanno indagando? Sicuramente, come no? Ma con quale profilo di reato, mi scusi? Profilo di reato è l'aggiotaggio. Aggiotaggio significa quando una categoria di produttori si accorda per mettere in essere dei comportamenti o degli atti che tendono a tenere alto il prezzo di un bene a diffusione generale come la benzina, scatta il reato di aggiotaggio. È un reato difficile naturalmente, perché non è a caso il codice è del 1930 e non a caso nessuno mai ha avuto interesse a creare un reato che funzioni a favore dei consumatori nel nostro mondo moderno e contemporaneo. Tantomeno poi con l'ultimo governo, tantomeno con questo che ci aspettavamo che qualcosa facesse, invece pure questo si è rivelato identico agli altri, cioè praticamente se ne frega dei consumatori e fa soltanto il bene dei produttori e dei petrolieri, cioè li perdona sempre per le loro speculazioni selvagge. Allora, mentre c'è chi ci segnala che in alcuni supermercati della grande distribuzione si paga... per esempio, cito testualmente, poi verificate se è vero, al supermercato Leclerc in Garfagnana il gasolio si paga 1,654 euro, altri segnalano prezzi un po' più bassi in altre parti del paese, per esempio, oddio, mica tanto più bassi, però 1,835 euro Total, a Udine 1,879 euro la Shell, sempre a Udine, però per essere dimostrato l'aggiotaggio, mi scusi Rienzi, voi dovreste provare a questo punto che c'è stata un'intenzionalità. Che c'è stata un'intesa. L'intesa un'intesa, si può provare sia con fatti specifici, lettere, accordi fra di loro, come è stato in altre occasioni, perché l'antitrust in altre occasioni l'ha provato, sia anche da indizi pesanti, che può essere per esempio il fatto che nonostante il prezzo al barile cali, in quello stesso giorno tutti i venditori di benzina, tutte le marche, rialzano il prezzo nella stessa misura. Ma scusi, ma più che aggiotaggio, no, perché io l'aggiotaggio lo conoscevo come reato finanziario, ma è un'altra cosa. Ah. Più che aggiotaggio, non sarebbe l'ipotesi di cartello? Cioè, per esempio, l'antitrust intervenne... È la stessa cosa, il cartello è aggiotaggio. Dal punto di vista amministrativo è cartello ed è competenza dell'antitrust. Esatto. Dal punto di vista penale è aggiotaggio se si dimostra questo accordo doloso. Naturalmente che sta alla Guardia di Finanza, che sta indagando in queste procure dove hanno avviato l'indagine, di scoprire se c'è o non c'è questo cartello organizzato. D'altra parte, in 10 anni noi abbiamo calcolato, oggi abbiamo dati, sa che il gasolio costa il doppio dieci anni. Ecco, lo sapete. L'abbiamo detto anche noi, negli anni 80, che pure non erano anni di petrolio basso, però no, costava 1,540 euro di oggi. E... No, io dico 10 anni, quindi era praticamente, è un dato del 110,9%. Oggi praticamente adesso costa 1,780 e 1,875 la verde, e 10 anni fa costava 1,23 e il gasolio costava 8,44, quindi come vede è un dato di 10 anni, non dagli anni 80, esattamente 10 anni fa, 10 anni fa è raddoppiato il prezzo. Senta Renzi, lei non mi vuol dire quali procure stanno indagando, ma almeno quante? No, sono? Sono almeno 3. Almeno 3, nord, sì. Centro, sud? Nord. Facciamo il gioco dell'oca. No. Quando ci sarà un provvedimento di qualche tipo ne daremo notizia. Lasciamo lavorare serenamente la magistratura. Lo sapete che stiamo parlando di soggetti potenti, perché sono anche insieme con lo Stato, hanno la complicità dello Stato. Io faccio di nuovo un appello al Presidente del Consiglio Monti. È inutile che faccia finta di lottare contro il caro vita. tanto l'aumento della benzina fa aumentare tutti i prezzi e fa aumentare l'inflazione, si scarica su tutte le merci, è una rovina, o agisce su quello in modo serio come faceva, cercava di fare quando stava in Europa, eppure Catricalà quando stava all'antitrust, oppure arrivederci grazie, vuol dire che non va bene. Arrivederci grazie, glielo dico io intanto. Certo. Rienzi, presidente dei Codacons, poi vedremo appunto se le procure avranno elementi sufficienti per aprire un'inchiesta. Voi le denunce le avete sporte comunque, giusto? Sì, 104 procure. Su tutte 104 procure avete sporte? Tutte 104 le procure. E 3 hanno risposto? Potresti che fra poco risponderanno altre 40, altre 70, vedremo. Quando a un certo punto si cominceranno a incavolare anche i magistrati, che prendono pure loro con la macchina, la benzina a questi prezzi assurdi, potresti che qualcosa cambia. Grazie, grazie presidente del Codacons. Grazie a voi, buon lavoro. No, resta sempre questo mistero di Fatima, cioè la benzina oggi è a 1,870 euro almeno, con un prezzo del Brent a $126 al barile, petrolio del Mare del Nord, ossia 96 euro al cambio di 1,31, visto che il petrolio si paga in dollari, ma noi ragioniamo in euro. Nell'agosto del 2008 il prezzo della benzina era 1,560 euro, €0,30 meno di adesso, però il prezzo del petrolio era $147, che col cambio di allora 1,58 93 euro. Ossia la benzina, il petrolio costa 3 euro in più al barile, la benzina costa 31 centesimi in più al litro. Il petrolio costa, diciamo, il 3% in più al barile, la benzina costa il 20% in più al litro. È vero che la componente fiscale è aumentata di 20 centesimi, è vero anche che lo Stato incassa, pensate, sul prezzo complessivo della benzina, tra IVA e accise, lo Stato incassa il 60%, un altro 33% va, è sul prezzo del petrolio, il 7% finisce alle compagnie petrolifere, il 2,3% ai gestori. Vedo molte segnalazioni, benzina in Slovenia, lo so, sul confine a 1,33 euro, ma bisogna arrivarci. Poi a Livorno invece mi sa che siamo a un nuovo record, zona Pontino, la benzina a 1,933 euro, complimenti. A Paderno Dugnano, a Carrefour 1,719 euro, Cinisello Balsamo, Auchan 1,659 euro, se volete faccio il programma tutto a Pero, 1,659 euro. È 1,720 euro a No Brand a Sedriano, a Gemona nel Friuli il gasolio è 1,68 euro, a San Marco Petroli Vicenza 1,67 euro, ma basta perché c'è il traffico, a dimostrazione però che quando si diceva se la grande distribuzione ha modo anche di rifornire e trovare degli sconti perché vai a fare la spesa e poi fare la benzina, gli effetti sui prezzi si vedono. Traffico e poi le trattative sulla riforma del mercato del lavoro. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta, vedo che molti vorrebbero lanciare una campagna contro le accise. Attenzione, le accise sono fisse e paghiamo anche quelle sulla guerra d'Abissinia, la crisi di Suez, il terremoto di Ripinia. L'IVA è un'altra storia. Allora, quando si dice, mi ricordo che con il secondo governo Berlusconi, l'allora sottosegretario Valducci, a questi microfoni, disse stiamo per lavorare sull'IVA anticiclica. Cosa vuol dire? Vuol dire che se lo Stato immagina di incassare 10 con un prezzo del petrolio, con un prezzo della benzina su cui si applica l'IVA di un certo tipo, se poi il prezzo sale tu incassi 12, 13, 14, allora si dice va bene, visto che comunque tu stimavi di incassare 10, rinuncia alla plusvalenza e rendi anticiclica l'IVA, cioè riducila se aumenta il prezzo della benzina. Questo che effetto avrebbe? Avrebbe l'effetto di non creare l'inflazione importata. Il paese è per buona parte in stagflazione, cioè anzi stagnazione economica con un po' di deflazione. l'inflazione che si vede, dato ieri dell'Istat, al 3,3% è quasi tutta dovuta al prezzo del petrolio e del gasolio e alle merci che i camion trasportano, per dire in maniera un po' semplice. Andate avanti pure con la proposta, tanto noi torneremo a parlarne. Adesso invece vorrei parlare della riforma del mercato del lavoro. Nuovo incontro tra il ministro Welfare Fornero e il leader di CGIL, CISL e UIL. Allora, dovrebbe nascere l'assicurazione sociale per l'impiego a carattere universale, sostanzialmente è un sussidio di disoccupazione che sostituirà le varie indennità di mobilità e disoccupazione. L'assegno dovrebbe arrivare fino a 1.119 euro al mese per 12/18 mensilità, ma ogni 6 mesi scende di un 15%. Ad oggi la mobilità dura 24 mesi per chi ha 40 anni e 36 mesi per chi ha più di 50 anni. L'assicurazione, questa assicurazione andrebbe ad affiancarsi alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che però non verranno più utilizzate in caso di chiusura dell'azienda, come invece avviene adesso, che è la critica che il ministro muove. Se un'azienda chiude, tenere in vita con la cassa integrazione i dipendenti ha poca efficacia economica. Potrebbe debuttare già dal 2013 al centro-nord, nel mezzogiorno scatterebbe dal 2014. Il tema vero erano le risorse, e cioè i sindacati calcolavano da 2 miliardi e mezzo ai 5 miliardi, oltre ai contributi che già vengono versati. Il ministro Fornero dice che le risorse ci sono, non arriveranno da ulteriori riduzioni della spesa assistenziale, ci sono abbastanza risorse per gli ammortizzatori sociali, per una riforma di questi ammortizzatori sociali, e l'accordo potrebbe già essere realizzato la prossima settimana. Stamattina ho avuto un incontro, tanto è venuto anche fuori sulle agenzie, un incontro con i rappresentanti del sindacato. Abbiamo concordato loro e io che non avremmo parlato di questo incontro, che è stato sicuramente utile, è stato sicuramente una buona discussione. Ci incontreremo ancora al di là dei riflettori e speriamo di riuscire, come ho detto, a finalizzare la nostra discussione nei prossimi giorni. Il commento dei sindacati: incontro utile ma nessun commento, abbiamo preso l'impegno di non diffondere le valutazioni che sono uscite, ha spiegato il leader della UIL Angeletti. È stato un incontro utile, nei prossimi giorni proseguiranno degli incontri, non abbiamo stabilito quando e come, e abbiamo convenuto con il governo che non i contenuti di questa conversazione e di questo incontro rimarranno patrimonio di coloro che le hanno fatte. E poi il segretario della CGIL Camusso ha detto: mi pare che stiano maturando cose positive, se ci fossero i soldi, e noi continuiamo a chiederli, servirebbero a darci prospettive. E apre alla ristrutturazione dell'articolo 18 anche il segretario della CISL Raffaele Bonanni. Si ragiona su un articolo 18 che va sostanzialmente a funzionare, alcuni propongono un modello tedesco, cioè il giudice a discrezione del giudice se il reintegro o la compensazione economica. E invece sulla paccata di miliardi, la battuta di ieri del ministro Fornero. Oggi il ministro ha chiarito: non volevo dire niente soldi senza accordo, volevo solo dire che non si capisce perché i soldi debbono essere messi prima se non c'è l'accordo. Oggi ha risposto con una battuta ironica la presidente di Confindustria Marcegaglia, a chi ha chiesto, ma insomma è vero che vi daranno una paccata di soldi, sentiamo la Marcegaglia. E vi daranno una paccata di soldi là, no? Non mi pare, da quello che ho visto non ci danno una paccata e basta, no scherzo, ma insomma io credo che dobbiamo, ecco, sugli strumenti per gestire le ristrutturazioni bisogna un po' passare da una fase di teoria a una fase di pratica, no? Siccome noi sappiamo come si gestiscono le ristrutturazioni, prima di smontare con molta velocità alcuni strumenti dobbiamo ragionare bene, quindi noi non siamo, io l'ho detto fino all'inizio, noi non siamo per lo status quo, siamo dell'idea di cambiare le cose, però siccome siamo in una fase molto delicata, abbiamo fatto una giusta riforma delle pensioni, se oggi noi dobbiamo gestire una riconversione industriale e non abbiamo più gli strumenti delle casse integrazioni straordinarie come era prima, non abbiamo più gli strumenti di mobilità, la pensione è lontana, cosa facciamo? E poi il presidente Confindustria ha aggiunto la riforma si basa su tre gambe, quindi flessibilità in entrata, ammortizzatori sociali, ma anche flessibilità in uscita. Attendiamo anche le proposte sull'articolo 18, ma c'è ancora tutto lo spazio per fare una buona riforma del mercato del lavoro. Mi sembra che la nota più importante dal punto di vista politico sia appunto quanto ha detto il ministro Fornero: l'accordo è realizzabile la prossima settimana. Vedremo poi dove si sono trovati i punti di caduta. Per ora è veramente tutto. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.